Va bene. Buonasera a tutte e a tutte, grazie mille per essere qui. Continua il percorso di questa biblioteca nel mondo della poesia. Non potrebbe essere differente perché ci intitoliamo a Joyce Lussu, appunto una grande poeta del Novecento, oltre ad essere stata appunto poetessa, è stata anche traduttrice di poesia, come sapete, insomma, chi ci frequenta, è stata lei a tradurre per la prima volta Hikmet, a tradurre addirittura le poesie di Yasmin. Ringrazio quindi tantissimo Federica Taddei che ha posto e curato questo appuntamento che ci dà la possibilità di continuare a muoverci appunto nei versi poetici del Novecento. Ringrazio i nostri ospiti di essere qui e vi lascio subito la parola. Grazie. Grazie mille. Anch'io ringrazio la biblioteca per l'ospitalità e Federica Taddei per l'organizzazione di questo incontro. Io sono Antonio Bagnoli, sono l'editore delle edizioni Pendragon, nipote di Roberto Rovessi, che era mio zio, e già da qualche anno, dalla morte di Rovessi nel 2012, ci stiamo occupando con il nostro marchio editoriale di tenere viva l'opera di Rovessi attraverso la ripubblicazione dei suoi testi, di sue opere, ma anche attraverso la valorizzazione tout court, quindi partecipazione a convegni, organizzazione di giornate di studio sulla sua opera, che è davvero straordinariamente interessante. L'incontro di oggi prende un po' lo spunto dall'ultima pubblicazione che abbiamo fatto, che è l'epistolario tra Giorgio Cesarano e Roberto Roversi. Chi era Cesarano, lo scoprirete dopo, se voi non lo sapete, così come non lo sapevo io prima di incontrarlo attraverso le carte di Roversi. E quindi, diciamo, arriveremo a questo volume attraverso un percorso che parte da Roversi, di cui il primo grande profilo ce lo traccerà Marco Giovenale, che ha lavorato con Roversi e lo sta studiando da oltre 20 anni. Quindi parte Marco, poi proseguirò un po' e poi Chiara Cotignoli, che ha curato quest'ultima pubblicazione, entrerà decisamente in questo volume. Marco. Grazie Antonio, grazie alla biblioteca che ci ospita, a voi che ascoltate e grazie a Chiara Cotignoli che ha avuto appunto l'onore e l'onere di curare questo che è comunque uno dei volumi forse più consistenti dell'epistolario roversiano. Allora, Roberto Roversi appartiene alla stessa generazione di Pierpaolo Pasolini, di Francesco Leonetti, che non a caso erano i suoi amici forse più fidati e complottavano insieme già dagli anni del liceo. E poi dagli anni dell'università. Insieme fondarono una rivista che si intitolava Eredi, quando ancora si era negli anni 40, quindi in un regime non facile. Roversi è nato nel 1923, Pasolini nel 1922. Diciamo, una ventina d'anni fa circa, ho curato questo libro per Luca Sossella, credo sia tra l'altro ancora in catalogo, che si intitola Tre poesie e alcune prose. Che un po' veniva a diciamo, coprire una sorta di ritrosia, diciamo così, ma in realtà una scelta politica molto forte, molto frontale, fatta da Roberto Roversi già dagli anni 60, sul fine degli anni 60, nel rifiutare la propria diciamo, opera letteraria principalmente, ma anche diciamo, saggistica, alle case editrici diciamo così, di grande distribuzione. Lui che aveva pubblicato con Feltrinelli, con Einaudi, con Rizzoli e con Mondadori, addirittura per primo, ha ripreso, riprendeva, ha voluto diciamo, abbracciare in pieno quella che negli anni 60, alla fine soprattutto negli anni 60 per lui, ma già da tempo, era diventato un po' uno degli strumenti principali di diffusione non soltanto di discorsi poetici, narrativi, saggistici, ma anche proprio frontalmente politici, quindi tutti gli strumenti della controcultura che principalmente facevano caso fa capo all'uso del ciclostile. Una sua opera che io considero forse tra le maggiori del Novecento, si intitola Le descrizioni in atto, comincia a pubblicarla verso la fine del 1969 Roberto Roversi in ciclostilato e ne distribuisce centinaia e centinaia di copie direttamente alle persone che ne fanno richiesta. In questo modo, non volendosi tanto, e questo potrebbe essere magari suggerito da quello che ho appena detto, ma è abbastanza impreciso, non volendo tanto opporsi in maniera radicale al contesto dell'editoria a lui contemporanea, quanto quanto in positivo. Quindi Roversi ha sempre questa dialettica tra un rifiuto di qualcosa ma un molto più forte sentimento di positività nel proporre un'alternativa. Quindi quanto per proporre un contatto diretto con i suoi lettori e una raggiungibilità immediata del testo che non debba passare attraverso i canali distributivi. In questo probabilmente anche molto, come dire, anticipando quella che poi sarebbe stata una deriva della fine degli anni 90 e di tutto purtroppo l'arco di tempo che arriva fino a noi, che fa sì che la distribuzione, almeno in Italia, la distribuzione libraria si sia mangiato e si stia mangiando buona parte del mercato editoriale, creando grandissime difficoltà a tutta la filiera, a partire dagli autori e dagli editori, fino ad arrivare alle librerie e di conseguenza anche al lettore. Spesso io dico, mi viene da dire che l'ingerenza e la esosità e la scarsa affidabilità e la velocità di rotazione con cui i volumi devono cambiare e sparire dagli scaffali, che contraddistingue questo modo di produzione di questo oggetto che appunto è diventato poco più che una saponetta, forse poco meno che una saponetta, che è il libro, ecco, questo meccanismo pian piano retroagisce dalla filiera, dal punto estremo della filiera, quindi dalla libreria, attraverso questo modo un po' drogato di funzionamento della distribuzione, fino alla mano che tiene la penna, e di conseguenza gli scrittori stessi si adeguano un po' a produrre delle saponette. Questo è probabilmente stato intuito in maniera forse embrionale, forse anche qualcosa di più che embrionale, dallo stesso Roversi, che quindi è riuscito a disseminare la propria opera, non soltanto narrativa, poetica, ma anche di contributi politici, contributi di analisi della realtà, attraverso un'infinità di forme, intanto una quantità di riviste a cui lui ha collaborato, e poi le riviste forse principali che lui ha fondato, e ne cito soltanto due, ma sarebbero tante, e ovviamente Officina, 1955-1959, che tra l'altro è possibile rileggere, perché sappiamo benissimo che questo fascicolo, che usciva non molte volte l'anno, era ed è tuttora un oggetto ambito dai bibliofili e dai collezionisti, e quindi leggerlo fino a qualche anno fa era abbastanza complicato, ma già dal 2004 in brossura, e forse prima ancora in un'edizione rilegata in cofanetto, proprio bene, ecco, quindi 10 anni prima addirittura, quindi già nel 94, era disponibile, forse ancora in catalogo, presso Pendragon. Pendragon ha il grandissimo merito di tenere viva non soltanto la letteratura di Roversi e tutto ciò che di Roversi è confluito in tante forme, appunto vediamo anche i carteggi, ma proprio di tenere vivo lo spirito roversiano, di mantenere a catalogo delle opere e ricostruire e tenere sempre presente il lavoro fatto da una collettività di autori. Qui abbiamo appunto l'esempio di Cesarano, ma dopo Antonio ci spiegherà anche quanti altri nomi convivono nel catalogo che appunto Pendragon riesce a tenere vivo. E l'altra rivista che sicuramente bisogna citare è Rendiconti, che per un primo tempo arriva fino al 1977, poi riprende nel 92, se non sbaglio, fino a circa il 97-98. E altra rivista, anch'essa nata nello spirito battagliero di Roversi, in cui l'impegno letterario non è mai in nessun modo disgiunto da quello letterario, e che appunto ospita a pari titolo e pari merito autori esordienti e autori invece affermati, saggisti, scrittori i più diversi. Infinite sono poi le collaborazioni. Adesso mi viene in mente quella che mi ha fatto conoscere l'opera di Roberto Roversi per la prima volta, era la seconda metà degli anni Ottanta, adesso non ricordo esattamente l'anno, per qualche motivo che qui un po' mi perdo nella memoria, vengo a conoscere questa rivista che si chiama Lo Spartivento, curato da varie persone, tra cui lo stesso in fondo Roversi, e da Gabriele Milli. Gabriele Milli è scrittore, traduttore dallo spagnolo, che a un certo punto nel suo lavoro di bibliotecario decide di aprire questo che era un foglio, un semplice foglio, che ospitava in maniera completamente libera e distribuendolo liberamente ogni tot, una certa irregolarità, poesie e prose di più diversi autori, anche mappando un po' una situazione interessante di poesia dialettale locale emiliana. E secondo numero, se non sbaglio, secondo numero dei Quaderni dello Spartivento esce nel 1991, esce Le Descrizioni in Atto, appunto, che a mio avviso è veramente uno dei capolavori di questo secondo Novecento. Quindi esce di nuovo dopo le prime edizioni di cui abbiamo parlato, che erano in ciclo stile della fine degli anni 60, cioè saranno diverse tirature anche negli anni 70, esce di nuovo, ma di nuovo non con un editore blasonato, ma con un foglio militante e in occasione, tra l'altro, di una iniziativa di carattere sindacale, in cui le tre principali sigle sindacali avevano organizzato qualcosa, adesso non ricordo esattamente, a Bologna, proprio, mi sembra sbaglio. Era proprio per il primo maggio, esatto. E questo libretto un po' arriva con un sasso nello stagno a, per me, farmi conoscere qualcosa che ovviamente nella generosità, nella bellezza dell'idea del ciclo stile, però qualcuno della mia generazione non aveva potuto incontrare. E da lì nasce un dialogo, un rapporto diretto con Roversi, che era proprio quello che lui, nella sua idea di letteratura e di militanza, aveva intenzione di fare e di creare, di attivare. Queste sono le scintille che lui ha sempre come semi seminato nel corso della sua vita, attraverso riviste, ciclostili, fogli liberamente circolanti, come appunto lo Spartivento, e edizioni legate a questi fogli. Non si contano le micro edizioni che Roversi ha fatto negli anni, magari appunto ci sono lettere di Calvino che gli chiede di ripubblicare con Einaudi, lui non pubblica con Einaudi, ma magari fa una serie di poemetti, di piccole poesie, per una piccola casa editrice che in realtà porta il nome della macchina da cucire del signore che ha deciso di fare questa micro edizione di 9 copie delle poesie di Roversi. Ovviamente questo dà anche un po' la stura al collezionismo più folle, però nella realtà tutto si dissipa in questa grande disponibilità di Roversi a donare i propri testi a chi ne fa richiesta, a prescindere dal discorso specificamente anche micro editoriale. Per cui, se voi avete perso le 9 copie di questo fascicoletto cucito con la macchina da cucire, però era possibile scrivere a Roversi e ottenerne in cambio le poesie. Questo fa parte anche del carattere, diciamo così, militante in senso anche di contatto diretto con i poeti che Roversi ha sempre avuto. Nella sua libreria, che ha avuto vari indirizzi, l'ultimo a Via dei Poeti a Bologna, lui ha sempre accolto decine e decine e decine di poeti, di autori, di autrici, di saggisti, incoraggiando i giovani e sottolineando divergenze e assonanze con invece i più age. E sempre comunque in grado di portare questo elemento di positività nella scrittura e nell'organizzazione delle cose letterarie. Una cosa che di Roversi voglio dire, prima di passare la parola a Antonio, è questa. Spesso si sente dire, o comunque una delle cose che più io stesso adesso vengono sottolineate, è che Roversi, grande organizzatore di cultura, grande snodo al centro di Bologna tra mille iniziative, personaggio assolutamente imprescindibile se si vuole concretamente studiare tutta una serie di snodi. Pensiamo soltanto a che cosa ha significato il conflitto Pasolini-Sanguinetti nel 1957 sulle pagine di Officina. Ecco, di solito Roversi, non di solito, però spesso Roversi viene, io vorrei dire, limitato a questo ruolo, diciamo così, di interfaccia tra letterati, poeti, eccetera. In realtà Roversi è stato un grande poeta, e questo va detto, diciamo, a chiare lettere, considerando la sua produzione fin dagli anni giovanili, fin da quando aveva deciso di dare alle stampe, ai tempi di Re Gioacchino, una raccolta di racconti con la sua casa editrice, la Palma Verde, che era casa editrice, e nello stesso tempo anche la sua libreria, perché lui è stato libraio praticamente per tutta la sua vita, dagli anni 40 in avanti. E sin dai primi racconti, che poi diventeranno i racconti di Caccia all'Uomo, pubblicato successivamente da Mondadori, fino a dopo Campoformio, che esce nel 62, e poi in una nuova edizione nel 1965, prima da Feltrinelli, poi da Einaudi. e con tante altre opere di poesia, che anche appunto e forse specificamente quelle a cui lui che lui nega alla editoria maggiore, anche se ci sarà una tra virgolette eccezione quando si tratterà di pubblicare un libro che è forse a metà tra romanzo, narrazione scomposta, frammentaria e poesia, che è I 10.000 cavalli, che esce per gli Editori Puniti nel 1976. Ma si può dire che da allora e fino alla uscita di questo libro per Sossella, che è stato un grande, ed è purtroppo non è presente oggi, ma insomma è una persona a cui si deve molto per la conoscenza di Roberto Roversi, ecco, escluso questo libro, escluso appunto tutto il lavoro straordinario che sta facendo e che farà Pendragon, Roversi ha sempre lavorato in quegli interstizi che però per tanti aspetti hanno rappresentato la salvezza, in un certo modo di intendere la letteratura unita alla politica della letteratura. Questo non soltanto perché Roversi ha vissuto le varie stagioni dall'antifascismo, lui partigiano, a Cuneo con Parri, come racconta in una sua pagina molto bella di ricordi, e poi negli anni 60 contro il neocapitalismo a Raffone, come lo chiamava lui, in perfetta consonanza peraltro con tutte le critiche che Pasolini faceva alla società dei consumi, e poi nelle lotte degli anni 70 a Bologna e nel riflusso che lui ha osteggiato quanto più possibile negli anni 80, anche iniziando un poema che non è assolutamente banale ricordare, che si intitola L'Italia sepolta sotto la neve, inizia a metà degli anni 80 e quindi in qualche maniera diciamo fa da diciamo, descrizione di questo, di questa sommersione del nostro paese sotto questa neve che, come potete immaginare, ha vari significati. Fino anche ancora al 1992, con la nascita appunto di Rendiconti, sappiamo che cosa significa per l'Italia, per la storia dell'Italia recente, il ventennio, più che ventennio che si inaugura purtroppo con gli anni 92, le stragi, 93-94, il primo governo Berlusconi. Ora, Roversi è anche stato praticamente forse una delle ultime voci a lanciare quei gridi di allarme che venivano lanciati già negli anni 60 e 70 da generazioni che purtroppo in molti casi hanno perso la loro voce negli anni 80 e 90. Io penso proprio l'hanno persa, nel senso che non ci sono più, sono purtroppo scomparsi, penso a Corrado Costa, Adriano Spatola, Enrico Filippini, lo stesso Calvino che muore nell'85. C'è un numero consistente di autori che possiamo ricondurre a una visione insieme politica e letteraria delle cose che purtroppo scompaiono in quel torno di anni. Io penso sempre che possa essere non un termine, purtroppo non un terminus ad quem, però comunque una data spartiacque, anche il 1996, che è l'anno del febbraio suicidio di Amelia Rosselli. Quindi Roversi ha molti motivi per essere importante ancora oggi, per trasmettere un certo modo di vedere la letteratura unita al contatto con la realtà reale, con la realtà storica, e alle possibilità, alle modalità che noi abbiamo per far sì che la nostra parola, la nostra posizione solo linguistica diventi qualcosa di più che solo linguistica. Grazie. Marco, in questo profilo di Roversi, lo ringrazio per essere riuscito a condensare così la grande poliedricità di interessi e di cose scritte da Roversi, e come ha detto lui, Roversi rimane fondamentalmente uno dei più grandi poeti civili che l'Italia abbia avuto nel Novecento, insieme con Pasolini, io credo, e questo il modo che aveva di lavorare. Marco me l'ha spiegato benissimo, si portava dietro un modus che riguardava proprio il modo con cui teneva le sue relazioni. Roversi è sempre stato accusato, soprattutto dopo che Pasolini nella Poesia in forma di rosa gli dedica nel terzo petalo doloroso, sta Roversi come un monaco di clausura, come un monaco che cerca la clausura dentro la clausura. Quindi Pasolini, che era ovviamente, invece, sanno tutti, una persona molto estroversa, molto narcisista, gli piaceva essere al centro delle cose, non poteva capire come Roversi invece stesse nella sua libreria antiquaria non volesse partecipare alle fiere letterarie, al mercato della cultura, e Marco ha spiegato benissimo perché, e volesse appunto rimanere, secondo lui, ai margini. In realtà non era un modo di essere margine, era un modo di essere fermo e di vedere esattamente tutto quello che gli rovesciava e gli si ruotava intorno, avendo un'idea molto forte. Rovers disse sempre: non si fa a 80 anni quello che non si sarebbe fatto a 30, cioè bisogna essere molto forti nei propri convincimenti. Quello di Rovers, che era quello appunto di non cedere all'industria della cultura, lui l'ha seguito per tutta la sua vita. E per fare questo ovviamente aveva un sistema di comunicazione molto, molto chiaro, cioè lui era disponibile a incontrare chiunque nella sua libreria Palma Verde, a entrare in corrispondenza con chiunque, ma diciamo alle sue condizioni. Le condizioni sono quelle di avere uno scambio vero, profondo, interessante, sulle basi della costruzione di un qualcosa che Rovesi diceva il fine ultimo della sua giornata, cioè cambiare il mondo. Lui diceva sempre: bisogna svegliarsi la mattina con l'idea che bisogna cambiare il mondo. Poi si va a letto la sera e si vede quanto si è riuscito a fare. Questa era un po' la sua idea, e naturalmente usando le sue armi, che non erano le bombe o le pistole come facevano le BR, ma era la letteratura e la poesia. Quindi il modo in cui lui corrispondeva era proprio come un sistema che adesso non si usa più, che era quello delle lettere. Qui ci riportiamo un po' al titolo che abbiamo dato a questo incontro: Corrispondenza edita inedita. Rovesi, quando ha chiuso la sua libreria antiquaria nel 1996, ha riorganizzato un pochino il materiale, pur essendo per lui stato un anno particolarmente doloroso, perché mentre lui chiudeva la libreria, suo figlio era malato terminale, infatti poi morì pochissimo dopo, dandogli un grosso dolore, chiaramente, e lui intanto sistemava tutto il suo archivio, che era tutto dentro tra la libreria e casa sua, tutte le centinaia, migliaia di lettere, ritagli, corrispondenze, perché teneva tutto, aveva questa modalità, non buttava via quasi niente. E quindi quando ha riorganizzato le cose per chiudere la libreria Palma Verde e selezionare le cose da tenere, le cose da dare all'archivio di Pieve di Cento, che era la località in cui era nato suo padre, quindi a cui era destinato tutto il suo archivio personale, però tante cose aveva deciso di tenerle. Tra queste aveva selezionato, trovandole nei cassetti, in mezzo ai libri, in mezzo a carpette, eccetera, ha messo in ordine la sua corrispondenza. E la sua corrispondenza è quanto di più interessante, io credo, possa esserci per chi studia la letteratura italiana del dopoguerra, perché c'è una quantità di materiale straordinario, e nella corrispondenza e negli scambi che lui aveva c'è giudizi, commenti, progetti realizzati e non realizzati praticamente di tutti i protagonisti della cultura italiana del secondo Novecento. Lettere con Pierpaolo Pasolini, con Fortini, con Vittorini, con Vittorio Sereni, con tutti, cioè Sciascia, insomma, non c'è protagonista della cultura italiana che non sia stato in corrispondenza con Rovesi, ma non due lettere, 100 lettere. Cioè, noi abbiamo ripubblicato il primo degli epistolari che abbiamo ripubblicato come Pendragon, è stato quello con Sciascia. E Sciascia ha scritto più lettere solo con un corrispondente, che era il suo amico del cuore, con cui si è scambiato 220 lettere, con Rovesi 203, per dire, e poi dopo tutti gli altri. E questo Sciascia, abbiamo pubblicato Vittorio Sereni, anche quello uno degli epistolari più corposi. Adesso abbiamo pubblicato questo con Cesararo, di cui parleremo dopo, ma noi stiamo preparando quello con Fortini, abbiamo quello con Vittorini, abbiamo quello con Calvino. Quello con Pasolini erano solo 40 lettere, le abbiamo date a Garzanti, che l'ha pubblicata nella recentissima nuova edizione delle lettere, appunto, di Pierpaolo Pasolini. E in queste lettere cosa si vede? Si vede quello che un po' la lettera come genere letterario, ecco, adesso questa è una cosa più da critici che non da editori, però il modo che lui aveva di scrivere le lettere era particolarissimo, erano era da un lato c'era una comunicazione che molto spesso era anche tecnica, legata ai libri, perché tutti questi grandi intellettuali vedevano in lui l'intellettuale, ma anche il libraio, perché Roversi ha fatto la sua professione dal 1948 a quando è morto, è stata quella di libraio antiquario. Quindi moltissimi gli dicevano, Sciascia gli si parlava delle cose, dei progetti, eccetera, poi in notte diceva: a proposito, sto cercando quel libro lì, non è che ce l'hai, oppure ho visto nel tuo ultimo catalogo quello, me lo spedisci quando puoi. C'era sempre questo scambio che riguardava, diciamo, il mondo del libro. E con molti invece c'era uno scambio invece molto più, molto, diciamo, proprio sui problemi che stavano a cuore entrambi. Con Sciascia, ad esempio, si parla molto spesso del ruolo dell'intellettuale all'interno del mondo e della politica, quindi la letteratura come impegno civile. Però poi una delle lettere più belle è quando Sciascia gli spiega che cos'erano le ossa dei morti, che erano questo dolce che Sciascia gli aveva mandato in una scatola, dicendo che era l'usanza, che nel giorno dei morti appunto si facevano questi biscottini e si davano ai bambini che giravano per la casa, un po' come Halloween, giravano e si davano le ossa dei morti, che erano dei dolci fatti col marzapane. Allora Roversi gli manda in cambio il certosino bolognese, che è il dolce di Natale, e questa loro usanza durò fino alla morte di Sciascia, per quasi 30 anni. Si scambiavano, Sciascia gli mandava le ossa dei morti per il primo di novembre e Roversi gli mandava il certosino per Natale. Quando ho parlato con le figlie di Sciascia per chiedere appunto l'autorizzazione dei diritti, e l'agenzia mi ha detto: guardi, provi, perché adesso sa Sciascia, però le do il telefono. Quando ho telefonato ho detto: sono il nipote di Roberto Roversi, la Laura Sciascia mi ha ancora un po' per telefono, mi ha abbracciato, ha detto: mi mandi un certosino, detto, piangendo, perché ha detto una delle cose che piaceva più a noi era quando papà ci portava il certosino di Roversi. Quindi un modo di comunicare e di stare insieme, di stare insieme proprio attraverso le lettere, che è una fortuna. E io ho chiesto a Roversi, quando mi ha cominciato a dare questi epistolari, gli ho detto: ma vi scrivevate molto, non vi parlavate al telefono? Mi ha detto: guarda che negli anni 50 e 60 l'interurbana costava un sacco di soldi, cioè parlarsi 10 minuti al telefono era una giornata di lavoro, quindi si faceva molto meglio con la posta. Perché tra l'altro per scrivere a Racalmuto due giorni dopo arrivava la lettera con un francobollo. Adesso se uno prova a mandare una lettera a Racalmuto, cioè se mette un mese, se gli va bene. Quindi era tutto un altro mondo, un mondo che prevedeva il fatto che la corrispondenza arrivasse via lettera. Lui ha tenuto tutte queste lettere e me le dava man mano. E mi ha dato appunto con i grandi nomi che vi ho detto. E un giorno mi ha detto: guarda, questo è di Giorgio Cesarano. Io ho detto: guarda, scusa, non so chi sia. Allora mi ha detto chi era Giorgio Cesarano e mi ha detto perché era una persona così importante per lui, è stata una persona così importante con lui. Io ho tenuto questo epistolario e l'ho messo insieme con gli altri. Poi, dopo 3-4 anni dalla morte di Roversi, Roversi è morto nel 2012, quindi sarà stato attorno al 2015, massimo 2016, ho parlato con un mio autore, mi ha detto, casualmente mi ha detto: ma sai che la moglie, conosco bene una signora che suo marito conosceva tuo zio. Ho detto: ah, mamma, come si chiama? Ah, si chiamava Giorgio Cesarano. Allora mi è venuto immediatamente il ricordo di queste lettere, ho detto: ma guarda, io avrò 100 lettere di Cesarano, chiedi alla signora se ha le lettere di Roversi. E davvero, così le ha spedite e io le ho messe lì insieme con l'altro nel mio materiale, dicendo: prima o poi vediamo che cosa fare di questo plico. L'idea era quella di arrivare comunque a una edizione, così come abbiamo già fatto per l'epistolario con Sciascia e con Serena. E quando ho conosciuto Chiara ho trovato la persona in grado di curare queste lettere. Adesso vi faccio parlare lei, che vi racconta chi era Giorgio Cesarano, che è una cosa abbastanza importante da sapere. E che cos'è questo libro? Buonasera a tutti e vorrei ringraziare innanzitutto Federica Taddei per aver organizzato l'incontro, e a Marco e Antonio per aver perfettamente delineato la figura di Roversi, e anche voi qui presenti per l'attenzione. E, prima di entrare nel vivo delle lettere è giusto diciamo delineare brevemente la figura di Giorgio Cesarano, perché quando anche Antonio mi diede in mano queste lettere e mi chiese se ero interessata a lavorarci sopra, di Roberto Roversi devo essere sincera, conoscevo poco, e forse la giovane età, forse perché a scuola si fa poco, e di Giorgio Cesarano non avevo mai sentito parlare. E, è stato per me illuminante un incontro con Nani, e appunto vedova di Cesarano, e che nella primavera del 2024 ci ha ospitato a casa e ci ha permesso di approfondire questa figura così incredibile. E, Giorgio Cesarano è nato l'8 aprile del 1928, era quindi di 5 anni più giovane rispetto a Roversi. E come mi disse Nani, la sua infanzia e la sua adolescenza furono complicate e tremende. E questo ci spiega anche un po' tutto il suo trascorso e tutta la sua vita. E, era figlio di due genitori con caratteri opposti. La madre era sensibile, aperta, intelligente, vicina a Giorgio. Il padre invece era un fascista convinto e di professione medico a Milano, ma molto attaccato al gioco d'azzardo. E quando i genitori si sono separati, Giorgio è andato a vivere con il padre e la matrigna in un ambiente quindi ostile, radicalmente fascista e privo di affetto. A 13 anni però decise di cambiare in autonomia completamente vita per riallacciarsi a quella figura materna così sensibile e che fino ad allora aveva potuto vedere soltanto d'estate. Nel 1942 si iscrisse quindi al liceo scientifico a Milano e ottenne il permesso di vivere con la madre. E quello da allora sperimentò un mondo completamente diverso. Si fece degli amici che fino a 13 anni non aveva mai avuto, e grazie all'attenzione di Mimì, come la chiamava lui, di Anna Maria, e, cominciò a parlare di letteratura e musica. Questa infanzia infelice e un'adolescenza altrettanto complicata si unirono a un ulteriore periodo difficile vissuto durante la guerra. Infatti, per senso dell'onore, per fedeltà alla formazione ricevuta e per quella sua personale necessità di partecipare direttamente agli eventi, che è un atteggiamento che lo caratterizzò per sempre nella sua vita, cosa che si vedrà molto bene nelle lettere del 68. E, Giorgio fuggì due volte di casa per arruolarsi, pensate, a 16 anni e schierarsi come militare prima nella contraerea, e riportato a casa fortunosamente dalla madre, e poi nella decima MAS, nel battaglione Lupo, fianco a fianco dei fascisti. E durante la liberazione fu salvato dai genitori da un assalto di un plotone di esecuzione partigiano e riportato a casa. A Milano però si ammalò di tubercolosi e visse due anni... Non c'era la decima MAS prima dell'8 settembre? No, dopo il 1943. Quei due anni in cui si ammalò di tubercolosi, viste nei sanatori, furono per lui un periodo di crescita, formazione e studio da autodidatta. Iniziò a leggere Marx e si fece un proprio pensiero, acquisendo un orientamento politico personale opposto a quello con cui era cresciuto, e riconsiderò allora tutta l'esperienza bellica, e nel 1946 si iscrisse al Partito Comunista Italiano, quindi radicalmente cambiò completamente pensiero. E capì ben presto che voleva scrivere, cominciò a fare il cronista, iniziò a comporre articoli per l'Unità, ma ben presto, per il suo passato di fascista, fu estromesso sia dal partito che dal giornale. Nel frattempo però continuò a scrivere, scrisse le sue prime opere, i suoi primi racconti. Nel 59 uscì L'erba bianca, con una prefazione di Franco Cortini e di Jacopo Forti, di Attilio Stefanoni, che fu un suo amico per tutta la vita. E proprio infatti alla fine degli anni 50 Cesarano aveva conosciuto a Milano Franco Cortini, che fu per lui un maestro importantissimo. Non sappiamo se nella conoscenza tra Roversi e Cesarano vi fu la mano di Cortini, però grazie a Cortini, proprio appunto verso l'inizio degli anni 60, conobbe l'ambiente letterario lombardo e ne venne accolto. Fu in contatto con Giovanni Raboni, Giovanni Giudici, Andrea Zanzotto, Giancarlo Maiorino, e non sappiamo, ripeto, se Fortini ha avuto un ruolo in questa amicizia, ma a partire dal 62 anche Roversi divenne un punto di riferimento fondamentale per Cesarano. L'autore milanese collaborava allora per varie testate giornalistiche, tutte di sinistra, ricordiamo Paragone, Out Out, Questo e Altro, e grazie proprio su invito di Roversi iniziò a collaborare anche con Rendiconti. L'incontro vero e proprio tra Roversi e Cesano fu, lo definisco io, fortuito. Nel 1962, che è l'anno in cui appunto inizia poi il carteggio, Nani studiava allora, si frequentava un corso di letteratura straniera all'Università Bocconi di Milano. La facoltà però chiuse e questo la costrinse a trovare una nuova sede per proseguire gli studi e venne proprio a Bologna, all'Alma Mater Studiorum, e che le riconobbe gli esami e le permise poi appunto di laurearsi. E quindi nel 1962 Nani e Giorgio si trovarono per le strade di Bologna e uno dei primi luoghi che decisero di frequentare, forse perché Giorgio aveva bisogno anche di un parere letterario, come succedeva molto spesso ai giovani aspiranti scrittori, e si rivolse a Roversi e iniziò a frequentare la libreria antiquaria Palma Verde. Quindi mentre Nani era a lezione, Giorgio passava le sue intere giornate discorrendo con Roversi e fu da quei primi incontri che nacque un'amicizia che io ho definito indissolubile, fraterna. E, il carteggio è composto da 160 lettere e diciamo, la domanda che mi ha spinto a studiare queste due figure e il contesto nel quale si collocano, quindi gli anni 1962-1973, era: come mai tra le lettere del cuore, appunto, come ci ha detto Antonio, tenute nel suo archivio personale, tra i grandi nomi, Pasolini, Sciascia, Vittorini, c'erano anche quelle con Giorgio Cesarano? Cioè, cosa avevano di speciale se il loro interlocutore era così poco conosciuto? E, per cercare di dare una risposta a questa domanda, vorrei spiegarvi la scelta del titolo, Dobbiamo dar battaglia, e del sottotitolo, Lettere di due compagni di strada, perché aprono in sé le due grandi tematiche che attraversano tutte le lettere, ovvero da un lato l'essere militanti e dall'altro l'amicizia fraterna. E il titolo prende spunto da una lettera del 30 marzo 1964 in cui Cesarano dice così: «È sulle pagine della rivista che dobbiamo dar battaglia, dimostrando la possibilità e la intrinseca salute di un altrimenti, di un diverso». E Giorgio sta qui parlando di uno dei tanti progetti di autonomia di stampa a cui i due aspirano e di cui discorrono più volte nelle lettere. La loro idea comune era quella di troncare i rapporti, appunto, come è stato detto, con l'editoria ufficiale e rendersi artigianalmente autonomi. Purtroppo, l'unico progetto che vedrà la luce, seppur per un breve periodo, fu una rubrica, Questore di poesia, fortemente voluta da Sereni, apparsa su una rivista allora di grande rilievo, Paragone, diretta da Roberto Longhi. E Dobbiamo dar battaglia quindi è un motto che li ha legati fin da subito. Entrambi spiriti civili, uomini militanti, non hanno avuto paura di andare contro la società per difendere i loro ideali e non erano da soli in questo. I nomi infatti che ricorrono più volte nelle lettere sono quelli di Franco Fortini, Alberto Asorrosa, Mario Tronte, Antonio Negri, Giancarlo Maiorino, Pierpaolo Pasolini, tutti uomini che appunto possono definirsi militanti, condividono questo carattere. E ci sono due campi in cui Giorgio e Roberto hanno dimostrato appunto questa loro militanza, questo loro carattere forte. Il primo è quello pratico della lotta politica e dimostrato, come dicevo, in molte lettere del 1968. E da un lato Roversi a Bologna metteva a disposizione il ciclostile e scriveva quello che poteva e sapeva per stare dalla parte degli studenti. Dall'altro lato a Milano Giorgio scese attivamente in campo partecipando alle occupazioni promosse dagli studenti in lotta, non solo delle facoltà universitarie come la facoltà di architettura, ma anche di altre manifestazioni artistiche come la 14ª Triennale Milano nei primi di giugno del 68, alla quale poi, come si vede dalle lettere, aderì anche Roversi. Il secondo campo invece è quello più letterario. Molte volte i due si trovano a parlare appunto nelle lettere delle opere pubblicate in quegli anni, da un lato Roversi, quindi registrazione di eventi, Unter den Linden, un'opera teatrale, le descrizioni in atto, che proprio con il ciclostile si inseriscono perfettamente, cioè sono perfettamente in linea con quell'autonomia di stampa di cui parlavamo nella spiegazione del titolo del libro. e dall'altro lato per Cesarano e La pura verità, la tartaruga di Jastrow, pubblicata nel 66, e dopo cui Cesarano smise completamente di scrivere poesia per dedicarsi alla riflessione teorica, che lo assorbì completamente negli ultimi anni. E ne raccontano l'iter di pubblicazione, ma non solo, si danno proprio dei consigli fraterni, commentando in maniera critica e anche proprio costruttiva il lavoro fatto dal compagno. Ed è proprio nell'ambito di uno di questi commenti che si inserisce la spiegazione del sottotitolo del libro, che apre appunto la seconda grande tematica, ovvero l'amicizia fraterna. E il sottotitolo prende spunto da una lettera del 15 novembre del 1966, in cui Roversi sta, diciamo, esprimendo tutto il suo consenso verso il lavoro portato avanti da Cesarano in quegli anni e raccolto nella Tartaruga di Jastrow, appunto l'ultima opera puramente poetica di Cesarano, e dice così: «L'avevo poi già detto, e adesso ripeto che merita il mio consenso, che non è solo quello di un amico, ma di un lettore appassionato e compagno di strada». Quindi due spiriti civili, due uomini militanti, ora anche proprio due amici in cammino nella stessa direzione. E fu proprio forse quella condivisione così forte dei valori di cui abbiamo parlato che contribuì a creare tra loro un'amicizia veramente fraterna, indissolubile. E questa amicizia non venne meno neanche quando i due iniziarono a scriversi meno. A partire dal 69, infatti, tra di loro ci fu un allontanamento che è testimoniato anche dal numero di lettere. Per gli ultimi 5 anni, quindi 69-73, si conservano solo 17 lettere rispetto al totale di 160 distribuite in 11 anni. E la causa fu politica. E Roberto e Giorgio avevano assunto atteggiamenti differenti verso quello che stava succedendo in Italia. Roversi rimase fedele alla sinistra, mentre Giorgio cambiò ancora una volta il suo pensiero e fu sempre più orientato a una deriva anarchica. Cambiò completamente modo di vivere e di pensare, allontanandosi dal mondo letterario ufficiale e implicandosi a poco con gli eventi. Venne addirittura citato in giudizio e portato per 3 giorni nel carcere di San Vittore a Milano, con l'accusa di aver avuto un ruolo nelle prime bombe fatte scoppiare a Milano il 25 aprile del 69 nell'ambito della strategia della tensione. E per allontanarsi da tutto questo e per potersi dedicare alla riflessione teorica e di cui parlavamo prima, Giorgio infatti voleva abbracciare tutto il sapere politico, scientifico e filosofico per poter finalmente dire la propria opinione, avendo però delle basi certe per farlo. E Giorgio quindi si allontanò da Milano e si ritirò a piede di compito in provincia di Lucca, e una scelta che Roversi comunque sostiene, che definisce comunque battagliera. E nonostante la rarità delle ultime lettere, in esse si percepisce comunque il desiderio di riprendere più stretti contatti, ma soprattutto la necessità e il bisogno estremo di Cesarano di condividere con Roberto il suo lavoro teorico, e proprio per trovarne consenso, perché secondo lui Roversi era, come citando dalle lettere, tra i pochissimi in grado di intendere, tra le poche persone capaci di capire a che cosa stesse mirando il suo discorso. E il carteggio si interrompe al 1973, non sappiamo se i due si sono scritti dopo quella data, ciò che è certo è che non sono andate oltre il 1975. Proprio per questo Giorgio infatti aveva vissuto gli ultimi anni, anni molto difficili, di perenne allarme, di isolamento letterario e politico che lui stesso si era creato. Si sentiva incompreso e gli ambienti intellettuali non erano, come si capisce bene, non erano più disposti ad accoglierlo, anzi lo ostracizzavano completamente, non vedendo di buon occhio posizioni politico-ideologiche così radicali. Dunque, sentendosi messo da parte dalla società e incapace di sostenere il peso di una realtà che non lo capiva più, il 9 maggio 1975, tornato per qualche giorno nel suo appartamento a Milano, si tolse la vita sparandosi un colpo di pistola al cuore. E per Roversi quella morte fu una perdita inaspettata, un colpo, come la definì in una lettera bellissima che scrisse a Nani 3 mesi dopo la morte. Prima gli era impossibile perché è completamente bloccato dal dolore. E quella lettera l'ho pubblicata alla fine della mia introduzione e credo che sia perfetta, per restituire alle parole di Roversi quello che per lui era stato Giorgio. Dice: carissima, hai capito che non potevo scriverti. La notizia l'ho letta sul giornale, correndo con l'occhio, ed è stato un colpo. Come perdere un fratello, uno che era dentro alla tua vita. E anche come provare un tagliente senso di colpa, perché la morte, questa morte, era anche mia. Quindi, tornando alla domanda iniziale del perché valeva la pena pubblicare questo carteggio, mi sento di rispondere non solo per il loro essere militanti, per questa amicizia fraterna, ma anche per far rivivere alla memoria una persona tanto dimenticata come Giorgio. Oggi Giorgio è diviso dalla critica in due, il Giorgio del primo periodo, quello poetico e quindi accolto, e il Giorgio del secondo periodo, quello più politico, scomodo e dimenticato. Ma studiando e approfondendo la sua vita e la sua opera mi sono sempre più resa conto che Giorgio va preso nel suo insieme proprio anche quando diventa scomodo, e proprio come ha fatto Roberto Roversi, che in un'intervista per Panorama del 1985, parlando con Luigi Manconi, lo definì una figura straordinaria e disse: per molti anni lo vidi spesso e mi attraeva quella sua capacità attiva di partecipare alla politica, pur rimanendo uomo e scrittore autenticamente libero. E spero che oggi, grazie al carteggio e a questa amicizia con Roversi, si possa, diciamo, togliere sempre più dall'oblio questa figura così incredibile. C'è tempo ancora per 3 minuti di una ripresa, sia di Marco che mia. Se qualcuno di voi ha qualunque domanda, naturalmente siamo qua. Marco. La moglie Nani lo seguì sempre nei suoi spostamenti? Sì, sì, sì. Si sono conosciuti nel 1960, perché prima Giorgio in realtà era sposato con un'altra donna, Margo Calistri, e però non si sono mai, e aveva tre figli, e non si sono però mai trovati, perché lei era di estrazione borghese, molto fascista, e nel 60 ha conosciuto Nani e poi si sono sposati, e Nani da lì si è ovviamente legata, l'ha sempre sostenuto e seguito nei suoi spostamenti, sì. È morta, purtroppo noi l'abbiamo incontrata a marzo del 2024 e lei è morta a novembre del 24. È morto un anno fa. Sì, prima della pubblicazione del libro, infatti. Vuoi dire qualcosa forse sull'archivio e sulla biblioteca, che quindi continueranno a vivere? Su Cesarano il materiale l'ha conservato Nani in questa villa a Pieve di Compito, dove noi siamo andati a incontrarla, dove praticamente aveva tenuto tutto come ai tempi di Giorgio, cioè la sua scrivania, aveva le cose come le aveva lasciate lui, la biblioteca non si era spostata, le lettere appunto aveva tirato fuori solo quelle che mi aveva mandato Nani Roversi, perché nessuno le aveva mai chiesto niente, solo due giovani studenti di Milano, uno di Milano e uno di Bologna, erano andate a trovarla e avevano incominciato un discorso per ripubblicare, fare riscoprire la figura di Cesarano. E adesso, con la morte, le figlie hanno, che poi appunto detto erano figliastre in realtà, perché erano figlie di Giorgio, ma non di Nani, mi hanno detto appunto, proprio poco dopo l'estate, che hanno deciso di donare tutta la biblioteca, tutto il materiale d'archivio, tutto quello che riguardava il padre, a un'associazione di Milano che si occuperà della catalogazione e del mettere a disposizione questi materiali. Io immagino che ci possa essere altro materiale molto interessante, soprattutto altre corrispondenze come questa che noi abbiamo pubblicato. Lui era una persona che, esattamente come gli intellettuali in quell'epoca, come Roversi, era in contatto con altri attraverso la scrittura. Una parte dell'epistolario con Raboni è stata pubblicata su una rivista, infatti poi da quella rivista un pezzo di quella lettera l'abbiamo messa in una nota di questo volume, ma in generale immaginiamo che ci sia anche tanto altro materiale, però appunto questo andrà nelle mani di questa associazione che curerà la messa, la catalogazione di tutto il materiale. Sì, il ruolo di Roversi, come si vede, è sempre centrale, no? Anche in quelli che poi diventano involontariamente, sicuramente non per loro responsabilità, figure, mille virgolette, marginali. E questo vale per tanti corrispondenti di Roversi, anche della mia generazione e di quelle successive. E, la libreria di Roversi era appunto è sempre stata un po' una fucina in questo senso. E, ricordo per esempio, per quanto riguarda soltanto l'ambiente di Bologna, l'importanza che la figura di Roberto Roversi e il suo ruolo ha avuto per una rivista come Verso Dove, quindi Vincenzo Bagnoli e gli altri della redazione, Sergio Lodino, Il Tempo, hanno, diciamo, loro hanno in qualche maniera un po' preso anche la stessa eredità roversiana. Sto pensando che questa rivista, nata negli anni 90, secondo me, se non sbaglio, verso il 95-96, quindi grosso modo poco dopo la ripresa della pubblicazione di Rendiconti, continua tuttora, dopo un'interruzione che si colloca circa una decina, quindicina, se non sbaglio, di anni fa, in una forma che, per quanto riguarda i numeri esauriti della rivista, è in forma liberamente scaricabile in rete in PDF. Quindi anche qui siamo da capo. Quello che in qualche maniera Roversi aveva intuito ormai veramente diversi decenni fa si è poi potuto realizzare grazie alla rete, e molta parte del suo insegnamento, della sua capacità di diffusione della cultura si è semplicemente riversata in strumenti che appunto al suo tempo non c'erano o erano nella forma particolare appunto del ciclo stile. E questo, in questo io ho sempre pensato questo, che in realtà non ci sono le innovazioni tecniche che cambiano il mondo, ma in realtà c'è una sorta di pregresso sociale, una sorta di desiderio sociale condiviso che alla fine, per pressione, riesce a creare il mezzo, lo strumento tecnico che poi realizza questo desiderio. Quindi in qualche maniera tanti anni anche di diffusione clandestina, moltiplicata, libera, orizzontale, di materiali che non erano soltanto poetici ma anche politici, ha poi in qualche maniera in tutto il mondo portato all'estremo questo desiderio di una orizzontalità o di una rete o di un fare rete, che poi di fatto si è realizzato, anche se poi sappiamo benissimo con quali derive, soprattutto negli ultimi 15-20 anni. Questo semplicemente per non so, magari forse sono ingenuo, riattualizzare un po' la prassi di Roversi, che non è mai stata soltanto infatti letteratura quella roversiana, ma è stata sempre anche incisione, tentativo di incisione sul presente. In questo senso le descrizioni in atto e il loro modo di descrivere l'Italia degli anni 60 non hanno assolutamente niente da invidiare agli scritti pasoliniani su quegli stessi, su quello stesso periodo. E non so se ci sono ancora ulteriori domande, oppure non so, un discorso anche sul piano editoriale stesso, perché per esempio del teatro non abbiamo parlato. Cesarano ha mai scritto per i quaderni piacentini? Per quaderni piacentini, dice? Ah, sì. Sì? Ah. Sì, sì, era anche in contatto con Maria Corti, se non erro. Credo che ci siano anche delle lettere con Pier Giorgio Bellocchio, mi pare, però. No? Appunto, c'è pubblicato, quindi. Sì, penso di sì. Beh, c'è un saggio che ha scritto Neil Novello, non mi ricordo il titolo, è in bibliografia lì. Un saggio che è dedicato all'attività, diciamo, di scrittore di Giorgio Cesarano, che appunto è stato studiato non tanto quanto noi pensiamo. Ma Cesarano in quanto tale ha pubblicato o no? Ha scritto? Sì. Quindi nel periodo, quando era comunista, diciamo, sì. Prima di diventare anarchico. Anche dopo. Ma anche dopo, sì, perché poi no. Diciamo, più che comunista, la realtà è che lui, adesso, giustamente, lui si era allontanato dalle militanti, sì. Vuol dire, sì. No, lui si era vuol dire aria comunista. No? Sì, no, lui si era allontanato. Anarchico, no? Esce da là. Diciamo che lui esce dal partito comunista. In quegli anni lei sa che essere, diciamo, inquadrati, sì, dentro... Insomma, anche quelli del manifesto sono usciti dal partito comunista, esatto. Sono rimasti comunisti. Comunisti, ma... oggi sì. Sul giornale scrivono che erano comunisti. Invece diventare anarchici è un'altra cosa, insomma, no? Sì. Lui sa, la tradizione carlina o romagnola. Sì. Si è allontanato molto da quello. Poi mi interessava capire se se lo prendevano, come dire, se lo caricavano, le quadre piacentine sono un po' una grande nave portamale, no? Quindi lo accoglievano. Non mi ricordo il momento, l'anno esatto in cui fu pubblicato, ma fu pubblicato perché lui era molto era molto dentro, diciamo, all'ambito della cultura di quegli anni. Lui ha pubblicato nello Specchio Mondadori, quindi era comunque un poeta, un intellettuale riconosciuto nel suo periodo. Poi si era allontanato moltissimo, partecipava fisicamente al 68 all'occupazione, ha partecipato all'occupazione della Triennale di Milano, fisicamente proprio, quindi lui era... Quali sono stati questi gesti, diciamo, che lo avrebbero così ostracizzato nella fase anarchica? Il fatto che adesso lui partecipò al gruppo LUD e quando si, diciamo, ritirò a piede di compito, Nani ci ha detto che giravano persone di qualsiasi ambito, qualcuno forse legato alle... È andato anche Toni Negri. Esatto, Toni Negri. Toni Negri andava spesso. Era quello. Quindi... E poi... Quello voglio dire. Legato, non ho capito. Legati all'eversione. Ah, all'eversione. Sì, però Toni Negri, insomma, anche l'ultima opera, L'Impero, cioè, comunistissimo, cioè, mai anarchico. Tutto si studia, ma Toni Negri, anarchico, lui, no? Anzi. Però sarebbe contraddittorio rispetto a... Cesarano è davvero un po' come Roversi, però meno tetragono. È una persona assolutamente molto, molto... piena di, diciamo, di sfaccettature. I suoi testi politici, lui, come si chiama, stava organizzando un testo, diciamo, proprio di cultura politica, in cui ovviamente si era allontanato moltissimo, diciamo, dall'ortodossia del Partito Comunista e aveva abbracciato posizioni anarchiche, ma anche maoiste, e in quel momento erano fortissime le spinte. Quindi non era più inquadrabile. Ieri l'annunziato stavamo potuti dal popolo, che era... formazione filo-cambogiana. Sì, erano momenti in cui arrivava la crisi. Oggi ben esistenti e ben trasmessi tutti i giorni. Certo. Anche tanti altri letteratori, ma anche Leonetti si era avvicinato moltissimo al maoismo. Veramente sono a capire quali sono... Se avesse scritto qualcosa di fortemente Apocalisse e Rivoluzione, questo testo che era Apocalisse e Rivoluzione, non era proprio, diciamo, infilato dentro la tradizione della riflessione del Partito Comunista, non era possibile inquadrarlo lì. Anarchica è una delle parole che credo che abbia usato lui stesso. Lui stesso. Si è autodefinito in un certo modo anarchico. Forse per essere tranchant nei confronti di alcune situazioni, però ecco, noi abbiamo quello che noi abbiamo di Cesarano sono le lettere che lui si scriveva con Roversi. E negli ultimi anni ha scritto meno, forse Chiara interpreta perché si erano un po' allontanati rispetto alla visione di quel periodo lì. Però non lo avrà ostracizzato per nulla. No. Invece gli ambienti comunisti, cosa avevano individuato, quali gesti, quali scritti. Ecco, questo devo dire che a percezione, più che non è che avesse fatto poi qualcosa di così eclatante. No, solo quello che scriveva e la posizione che lui prendeva, perché poi era un uomo anche militante fisicamente, no? Come ha detto, andava, faceva le occupazioni, insomma, una persona. Appunto, lui risulta essere in un certo modo molto meno, però quello che appunto volevo dare come riflessione finale per spiegare che cos'erano Roversi in maniera ancora un po' più ampliando ancora più il discorso di quello che ha detto Marco, che è stato precisissimo, perché Roversi ha la difficoltà nel momento in cui viene studiato, e probabilmente anche Cesarano per altri versi, di essere fondamentalmente troppo vasto. Cioè, Roversi, nel momento in cui lo si vuole studiare, è come avvicinarsi, io uso sempre questa metafora, a un frattale. Avete presente quei disegni geometrici che sono a colori, sembra che si arrivi alla fine, poi invece tutte le volte che sembra alla fine si riaprono nuove figure. E Roversi, tutte le volte che io mi trovo a studiarlo, e lo faccio da 30 anni, dopo aver lavorato con lui 20, e con lui e 10 passa senza di lui, perché e tutte le volte che lo si studia si aprono nuovi scenari. Quindi Roversi è libraio antiquario e ha fatto cose straordinarie, è editore perché ha pubblicato 70 titoli ed è straordinario anche in quello, è poeta, principalmente forse è un poeta, è narratore, è critico letterario, è corsivista di attualità, è paroliere di Lucio Dalla e di altri grandissimi autori della cosa, è progettista grafico, è stato il fondatore della prima cooperativa che aveva come della statuto sociale produzione di poesia. E quando è andato davanti al notaio, il notaio ha detto: ma guarda, produzione di poesia in una ragione sociale di una cooperativa non l'ha mai fatto nessuno. Ecco. E lui era socio fondatore della prima cooperativa di poesia, che poi pubblicava questi fogli che Marco diceva prima, e che venivano stampati con le poesie e dati in giro gratuitamente nella città per coinvolgere attraverso la scrittura poetica il massimo possibile delle persone, delle coscienze e delle personalità. Quindi Roversi ha questa capacità clamorosa di lavoro, tutto quanto, come dicevo prima, da dentro alla sua, dietro la sua scrivania, ma con gli occhi piantati dentro a ogni singolo problema del mondo, con l'idea che lui, attraverso l'azione che poteva fare lui insieme con gli altri, perché sempre è stato una persona che voleva fare le cose insieme agli altri, poteva fare. E come diceva, facendo l'esempio diverso dove, anche tutti i testi di Roversi, noi adesso abbiamo costruito un sito che si chiama robertoroversi.it, in cui li stiamo mettendo tutti, e man mano che li troviamo, ogni volta che troviamo qualche testo nuovo, fosse anche una introduzione o un testo nuovo, una poesia che ha dato una rivista, me ne è arrivata una poesia che ha dato a una rivista siciliana nel 1965, la persona mi ha fotografato, ha detto: ah, io avevo scritto, mi ha mandato la lettera e la poesia stampata, l'ho messa nel sito. Vitaldo Conte, che qua mi ha portato adesso un libro del 1985 con l'introduzione di Roversi, non ce l'avevo, perché poi Roversi, appunto, facendo poi pulizia tutto in una volta, in un momento così, delle cose probabilmente se le è perse e le ha date altrove senza tenerle, anche perché lui non era uno che ci teneva molto a dire: tengo la mia bibliografia di quello che ho scritto. Quindi in realtà noi lo stiamo scoprendo volta per volta. E in ogni suo testo, ogni introduzione, ogni critica, eccetera, si scopre una persona che leggeva e stava attento con una curiosità indomabile nei confronti delle cose che voleva studiare. Quindi qualunque cosa, per qualunque cosa lui scrivesse, si capiva come aveva letto, aveva fatto, aveva studiato. E quindi nello stesso modo che aveva nella lettura, l'aveva nella corrispondenza con le persone che lui sentiva affini, ed evidentemente con Cesarano, ma anche con Sciascia e con tutte le altre persone di cui lui ha voluto salvare le corrispondenze dandole a me, pensando che io poi nel futuro avrei potuto in qualche modo utilizzarle come sto facendo, evidentemente si sentiva affine. Scusa. Però mi sono perso. Però una cosa la volevo dire, che in quell'epoca terribile, perché a mio avviso è stata un'epoca terribile, gli anni 70, il giudizio, la critica politica non teneva nella giusta considerazione la sensibilità artistica, per cui molti artisti camuffavano e erano inavvertitamente soggetti a questo modus operandi della vita tutta. Bene, per cui io invece in questi discorsi a me è piaciuta molto la parola saponetta, per esempio, perché ho una visione artistica degli eventi. Allora, e ho visto il ciclo stile, ho visto, quindi ciò vi porto in una visione, ho visto il ciclo stile, ho visto questo dare gratuitamente, no? E ho visto l'arte, ho visto gli artisti di quell'epoca, Pollock, che erano solo gestuali, no? Infatti lui ha parlato di gesti, quale gesto, e non ha detto quale operazione, è giusto parlare di gesti. Quindi ho visto il dadaismo, no? E per certi versi questa ribellione io la vedo anche surreale, perché c'è la consapevolezza della tragedia. Guarda Pasolini, perché Pasolini è un tragediografo, non c'è nessuna tragedia, sono vere tragedie. E anche questi discorsi, alla fine noi ci troviamo vittime di una sconfitta, perché siamo tutti vittime di una sconfitta di quell'epoca, a parlare del valore di queste persone che avevano già intuito la tragedia. Quindi questa era una visione artistica e non politica, perché in quei momenti la critica politica era cieca, era assolutamente cieca. E no, io sono di sinistra, sempre mio padre era di sinistra, partigiano, quindi proprio non c'è, continuo ad esserlo, ovviamente. Per cui quello che dico è una critica interna, bene? Non da esterno, non mi è capitato di cambiare. Quindi anche il fatto, questa ricerca di cambiamento dal Partito Comunista, erano attività poetiche. Non erano, i poeti non sono dei politici, sono dei poeti. Allora, io non parlo in generale, perché non conosco né l'uno né l'altro bene. Vedi, Gianfranco, hai ragione. Il nucleo sta nell'azione che il poeta o il letterato cerca e vuole fare. Quando cerca e vuole fare. Quando un poeta non può più essere il poeta in quel modo, allora, anni 70, Giorgio Cesarano arriva ad uccidersi, ok? Roversi tace la poesia e incomincia nuove forme di ricerca, scrive tre pezzi teatrali, di cui due vanno al Piccolo di Milano e l'altro a Bologna, scrive tre dischi per Lucio Dalla che rivoluzionano la canzone, perché dice: in questo periodo qua bisogna cambiare il linguaggio. Allora il gesto artistico qual è? Il gesto artistico sta nella capacità dell'artista, che è un poeta è un artista, che riesce a interpretare il suo tempo e a cambiare la forma del linguaggio intorno a quello, cioè tenendo conto di quello che gli salta attorno. Agli anni 70 è vero, tu dici siamo stati tutti testimoni di una tragedia, di una sconfitta. Se tu studi quegli anni lì, cioè se io studio, io ero troppo piccolo per viverli, perché io sono del 65, però quando vai a leggere sono stati gli anni più violenti di tutti, cioè, sono stati anni tragici, ma in quel periodo lì senza essere percepiti per tanti, non solo perché all'epoca non solo, però il senso, diciamo, della violenza era proprio, sono stati anche grandi, senza grande, però la grande trasformazione, l'artista, e qua vengo a quello che volevi dire tu probabilmente, l'artista cosa fa? Tace, l'artista soffre troppo, cambia, eccetera, oppure cerca il linguaggio di quel periodo lì. In quel periodo lì incominciano i cantautori, incomincia la canzone impegnata, eccetera. Adesso io parlo sempre di Roversi per tenerlo in palmo di mano oggi, ma si potrebbe parlare di altri, però Roversi collabora con Lucio Dalla, scrive tre dischi, per primo nel mondo scrive una canzone sull'inquinamento, una su un serial killer, una sulle stragi di Bava Beccaris a Milano nel 1900. Quindi stiamo, come posso dire, si può fare. Ecco, si può fare. Gatto aveva addirittura elogiato il terrorismo. Chiaramente, ma proprio a chiare lettere. Ecco, appunto, anche De André è un altro che segue quella cosa. Quindi diciamo che una fuoriuscita c'è, no? Non so se sei d'accordo. Fuoriuscita c'è, e sta nell'artista, nel poeta, nell'intellettuale, in quello che c'è. La cosa tragica di questa corrispondenza, se leggi la corrispondenza di Nakoji, è che uno con la sensibilità alla cosa di Cesarano arriva a uccidersi. Questa è la cosa che noi, sulla quale noi abbiamo già fatto, questa è già la terza presentazione, non ne parliamo mai, ma capire come può uccidersi un uomo che aveva evidentemente una profondità. Noi riportiamo tutto alle sue tragedie di infanzia, al fatto che non aveva potuto laurearsi, che si sentiva inadeguato a parlare con i suoi interlocutori. Quindi appunto Nani ci ha detto, aveva deciso di cosa stava, qui studiava 12 ore al giorno. Cioè a 40 passa anni, dopo aver fatto tutto, dopo aver pubblicato nello specchio Mondadori, eccetera, stava lì a studiare, Non riusciva a trovare un altro linguaggio. Non trovava un altro linguaggio, quindi lui cercava di darsi un fondamento di cultura che credeva di non avere. Quindi era, tra l'altro era tornato sui classici, no? Cioè leggeva il Capitale, leggeva però voleva impadronirsi di tutto perché doveva essere sicuro. Come fai a essere sicuro? Alla fine ti uccidi, non puoi, non è possibile, perché non puoi sapere tutto e nel momento in cui scrivere poter sostenere qualunque cosa. Quindi alla fine, se sei così tormentato, arrivi ucciso. Comunque nel 68 era Paolo Portoghesi, il preside della facoltà di architettura, un artista. Che ha consentito, infatti lui ha passato un sacco di problemi, ha consentito l'occupazione. Io questo ho stato Portoghesi in quanto socialista è un po' ambiguo, è stato perché dopo, i socialisti per il movimento erano social fascisti. Io stavo, secondo, volevo evitare una tesi di Kautsky addirittura, perché l'Italia degli anni 70 è buffissima, ripropone paro paro il dibattito di fine 800 e inizio 900, cioè sono i dibattiti tra Lebanon, Lenin, Kautsky che vengono paro paro perché noi abbiamo avuto il fascismo, dovevamo recuperare quei 20 anni e quindi facciamo vediamo la roba francese e tedesca di 40 anni prima. Ma tra l'altro se uno legge i testi di certi sociali di oggi è incredibile, cioè sembra di leggere proprio i dibattiti 60-70, Anche le riviste anarchiche, perché c'è stato il Festival dell'Editoria Anarchica 2 mesi fa a Bologna, ho preso le ultime riviste, le ho lette. Sanno la capra che c'era la Panzeri e se c'erano dei nemici dei comunisti erano proprio gli anarchici, perché per i comunisti esattamente come per i fascisti lo Stato è fondamentale, è che sono gli uni e gli anni e l'altro gli anni di sinistra. E quindi l'opposto degli anarchici, l'eliminazione dell'ordine, no? No, dicevo comunque, cioè io credo sempre che nella forza dell'elemento umano ci sono poeti e poeti, ci sono caratteri e caratteri, ci sono scontri e scontri, Cesarano ha una grandissima sensibilità, ma probabilmente ha sentito di poter reggere l'urto di quegli anni, sì. Sono stati in tanti, sì, e poi vedo anche questa complicazione della ricerca letteraria, poi era questa grande figura che era Versi con cui mettersi in rapporto, forse sentiva di non essere... aveva questo handicap forte rispetto a... però è comunque diciamo Quello che si può leggere in queste pagine, poi uno se vuole approfondire Cesarano, appunto può leggere i testi di Cesarano, però quello che si legge qui, secondo me, è comunque molto interessante. È comunque la figura tormentata che avete fatto bene a tirare fuori. Ci fa piacere. Adesso il prossimo anno è in preparazione, dovremo riuscire a pubblicarlo nell'autunno del 26, l'epistolario tra Roversi e Fortini. Ed è veramente molto molto interessante, perché mentre in questi primi 3 epistolari sono tutti diciamo piccoli scontri, ma così con Fortini ci sono delle lettere di quelle da querela, ecco, infatti mi fa piacere che poter pubblicare un libro in cui un po' se ne suonano, ecco, perché poi perché leggendo queste lettere sembra che le corrispondenze fosse tutto così, invece sono stati anni di grossi scontri anche culturali tra persone che poi si volevano comunque bene, si rispettavano. Si stimavano e si rispettavano, però ogni tanto non se le mandavano a dire, ecco, quindi arrivavano giù degli schiaffoni mica da poco, come anche l'hai citato tutta, tra Sanguinetti e Pasolini ai tempi di Officina. Si scambiavano a volte in punta di fioretto, a volte invece erano ammazzate. Mi ricordo una cosa che diceva Roversi su uscì un articolo molto bello che ricostruiva un po' tra virgolette, ma forse anche senza virgolette, la marginalizzazione di Fortini all'interno del nucleo di Officina verso la fine dell'esperienza di Officina, non ricordo se già quando l'aveva presa Bompiani, cioè gli ultimi due numeri o no, in cui effettivamente c'è un intervento di Roversi, non ricordo se privato e quindi parte di un carteggio che era stato comunque reso pubblico in questa rivista, che era la gloriosa rivista Allegoria, che si faceva alla Sapienza, oppure invece no, in un intervento effettivamente pubblico, ma effettivamente Roversi diceva che Fortini era solito mettere i sassi nelle tasche dei compagni, come dire, no? Cioè, appesantiva e rallentava la scioltezza con cui avrebbero dovuto muoversi i lavori redazionali, ma anche le discussioni politiche. Quindi, cioè, Fortini, vabbè, non c'è bisogno, cioè, lo sappiamo, insomma, era un caratteraccio, insomma, una persona non facile, ecco, sì. Nella sua grandezza, peraltro. Ci sono un paio di critici letterari pensano che la fine di Officina sia stata dovuta a Fortini. Roversi non l'ha mai detto, però probabilmente c'è un paio di lettere che me lo fanno pensare anche a me. A prescindere dal famoso epigramma di Pasolini contro Pio XII, che poi insomma diciamo, l'ha portato alla chiusura nominale della rivista. Cioè. C'è qualche altra curiosità? Sì, volevo dire una cosa, ricordare un singolare destino di coincidenza tra Celerano, di cui non sapevo nulla, però mi colpisce perché questo tipo di rapporto tra l'azione, la produzione letteraria, artistica, è stato vissuto anche da Morselli, lo stesso percorso, assolutamente identico, il rapporto con la sinistra, con la cultura ufficiale, le posizioni individualistiche. Finito tragicamente nello stesso modo, le catture di Vespa si è ucciso. È vero, quindi tutto sei. Questo tipo di problematica che c'è stata negli anni 70, sì. Certamente è stata sconfitta alla fine, però era stato un movimento così potente che per stroncarlo ci sono volute le stragi. C'è voluta la strategia della tensione, bastava poco, c'è voluto e prima anche il mondo che dietro gli Stati Uniti, i servizi segreti, ma quindi in fondo quello che volevo dire, quel periodo là poi sì è stato sconfitto, però ha prodotto una tale quantità di cose che poi non hanno avuto continuità di sviluppo, per questo certamente. Però ha prodotto una grande quantità, si ha favorito proprio appunto questa molteplicità di linguaggi nuovi, anche in letteratura poi negli anni 70 sono venuti fuori nuove forme di linguaggio, no? Io non sono un letterato, però ho vissuto quei tempi in modo tale che poi insomma, vedendo le varie sfaccettature, per l'appunto, al di là del destino individuale c'è stata una grande produzione di linguaggi, di scoperte. Io voglio fare una domanda finale, critico e poeta, ecco, oggi c'è la stessa passione sanguinaria, diciamo. Sanguinitiana. Secondo me sì. Vabbè, io parlo per me, poi non lo so, insomma, io poi chiaramente ho, come dicevo prima ad Antonio, ho il tarlo roversiano, quindi probabilmente sono infettato, lo sarò sempre. Però ecco, diciamo che quello che ha permesso effettivamente a tutta una serie di situazioni molto depresse nell'arco soprattutto degli anni 90, non a caso, anche politicamente insisto sempre sulla importanza degli anni 90 in negativo. Trattative stato-mafia, bombe, eccetera. Diciamo dal punto di vista editoriale, una grande situazione di depressione per tanti aspetti, editoriale letterario. Ma quello che ha permesso poi una diversa configurazione delle cose letterarie, una diversa capacità di scambio, anche un'esplosione proprio di contatti, di legami, di nascita di riviste, eccetera, è stata proprio la rete. Quindi all'inizio degli anni 2000, quando ci siamo resi conto che era possibile portare, per esempio, tutta una quantità di autori che non erano mai stati tradotti e che non sarebbero mai stati tradotti dall'Accademia, dalla Francia, dagli Stati Uniti, dal Canada o da altre culture e letterature in Italia, ci siamo resi conto che non avevamo i soldi per mettersi una casa editrice, non avevamo i soldi per mettersi una rivista, però nessuno ci vietava di creare uno spazio in rete, e questo poi ha avuto delle ricadute anche nella letteratura di carta e nei convegni e negli incontri, eccetera, eccetera. Quindi secondo me questa passione negli ultimi 25 anni c'è stata, anche la rivista che appunto avete sotto mano, l'ho distribuito prima, un po' cerca grosso modo di darne conto. Un'altra cosa che invece mi premeva proprio a conferma del fatto che poi ci sono c'è la pressione della vita, o meglio della morte, che effettivamente poi blocca tutta una serie di cose. Pensiamo anche al grandissimo impatto che ebbe sui movimenti, sulla militanza e sulla realtà anche della vita di molti scrittori, la diffusione della tossicodipendenza, delle droghe, che nel corso degli anni 70 hanno spazzato via più di una generazione in realtà. E adesso sto pensando, non so, per esempio alla tragedia personale di Patrizia Vicinelli, ma a prescindere poi da quello, ci sono anche altre situazioni. Un'altra grande, purtroppo, per fortuna non dimenticata, ma comunque grandissima autrice, è quella che citavo prima, cioè Amelia Rosselli, che si suicida nel 1996 in preda appunto a una, diciamo, psicosi persecutoria, in cui vedeva effettivamente la CIA e i fascisti dietro ogni angolo. E da una parte c'era l'aspetto allucinatorio, da una parte c'era l'aspetto psichiatrico, d'accordo, ma è anche vero che, e questo l'hanno spiegato molto bene Sebastiano Triulzi e Giuseppe Carrera in un librettino che è stato pubblicato ormai 2-3 anni fa, ma è vero che il passaggio dagli anni dalla dopoguerra a proprio gli anni 50, non soltanto grazie all'amnistia voluta anche da Togliatti, ma proprio per il praticamente reimpiego di una quantità di quadri e di personaggi della destra storica, dei fascisti e poi diventati eversori, negli anni effettivamente danno anche un quadro diverso del panorama e letterario e politico degli anni appunto del secondo dopoguerra. E di conseguenza molte allucinazioni della Rosselli forse non erano allucinazioni, era probabilmente più sottile percezione della realtà. L'organizzazione della vittoria della DC non è di De Gasperi, ma è dei comitati di Porpoceri, e che sono ferico fascisti e che riprendono, ma non solo quello, ma non solo sono, cioè, proprio, tutta la propaganda usata dall'antifascismo e dalla Giunta dei Salomi, è riciclata tutta, e gli anni 50 sono, anche perché noi essendo come l'Iraq e avendo perso Saddam Hussein, ci rimaneva il Muezzin, e il Muezzin era quello del 29, cioè dell'uomo della provvidenza, cioè la posizione della Chiesa all'epoca era clerico fascismo. Poi sarà il padrone americano a prendere per l'orecchio e dire: guarda che noi siamo passati al permissivismo e fricchettioni agli hippie, quindi devi cambiare, e quindi diventa un problema. Allora io faccio le 10 fosse di Antonio nel ringraziare. Comunque volevo chiederti, ma sono peggio gli anni 80 o gli anni 90? È dura, gli anni 90 proseguono il lavoro degli anni 80, però per la prima metà degli anni 80 una serie di cose, di iniziative, di cultura, di controcultura, eccetera, eccetera, ancora erano, forse probabilmente era l'eco. Se è peggio Craxi o peggio Berlusconi? Diciamo uno è l'incubatore dell'altro, di conseguenza diciamo che c'è una. Sono gli anni in Italia, diciamo, migliore il suo PIL, ecco. Facciamo sempre. Lasciamo il saluto all'ultimo ad Antonio. Ringraziando innanzitutto Chiara. Grazie a tutti, dovete andare. Vi prego di passare, vorrei dare agli intervenuti vorrei lasciare un libro di Rovesi, se volete passare. Vi ringrazio molto di essere stati qui con noi. Grazie davvero. Grazie.